Angelus Domenicale. Ah, consigliere. Caro, guarda come adesso, ma tu, siamo durazione, bene va. Ma a conto dai da fare io. Cosa tu? Io ci stavo dando problemi. Non è questione di radio, no, è l'alimentatore, stava rompendo le scatole. Oggi che su cinese, guarda che non ti rompe più le scatole. Adesso l'ho cambiato e voglio vedere se è lui. Capito? Adesso vediamo un po' come scalda cosa dice. Ma già l'alimentatore si entra bene. 2 da 12 volt sono. Ah, accoppiati. Chiara, chiara, si stanno riproducendo. Ma lo sai che io ne ho visto uno su... coso, su internet, che va a 24 direttamente, si sta passando tutti i bagliacciati. È una cazzata mia, tu falli. Non ci vuole molto. Basta saperci mettere le mani, è semplice. Soltanto che quello sicuramente aveva qualche componentistica andata e non ce la faceva. Poi c'è un tenore a mare, vai. Ma guarda che già... Io l'ho visto l'altro giorno, cioè a 24 volt. E 24 volt mi pare 50 ampere, una cosa del genere. Poi non lo so quanti ampere servono per alimentare quello. Ehi, se lo prendi da 50, anche se a 12 già non sbagli. E serve per tutto. Ma se l'avevi già fatto, me l'aveva comparato già fatto, ma cosa vuoi? Prendi un casino di pentole e tutti quanti questi cose. Me lo comparato già fatto o rubiato? Le pentole sono le sue, Riantu. Le pentole sono quelle le sue alimentatore, capito? Poi ci sono le altre pentole della stufa, là. La stufa, quella è una caldaia, capito? Cara, come stai radiando tu? Bene, va bene, va bene. Ma com'è che sono allo stato solito? Signore, se c'è una valvola, il gatto... Ma madoglia, Davide, che è tutto. Ma non lo so che la paga la bulletta. Già pago io, tu. Dove ma io pago. Ah, allora... A fine di un mese, tutto in bulletta se l'avessi buttato. Meno male che sono fatto solito, sono a transistor, no guai. Ehi, mi sa che c'è qui Valero, e lì siamo. Oi, oi, oi. Lasciamo perdere, ma siamo uscita l'ultima bolletta alla luce. Sì, chi sa che c'è di gruppo sempre acceso? Cosa, tu? Quale, perché c'hai? Aspetta, il phone sempre acceso. Non lo stavo usando, l'ultima che è uscita adesso, anzi, del mese prossimo non fa nada. Quella è uscita a 110, l'altra a 220. No, ma guarda che è pieno di tasse mia adesso. Si conferma, il tono di oppiato, non ci fa pensare, guarda. Cosa vai, tu scendi. Allora, fa un cuffio, aspetta tu. Ora, aspetta un po' di... Dici che c'è che rock and roll qua, aspetta. Zitto. Aspetta, che devo mettere la cassa esterna, se no questo protesta. Sì, metti la cassa esterna. Perché devi mettere il parlascolta più basso. Gara. Ok. Adesso è tanto da far zitto, se no facciamo rientro. Va bene, adesso lo proviamo questo. Poi vediamo cosa dice quando scaldano i motori qua. Aspetta. Sveglia, ma male riferito una cosa, male riferito che da poco cacca uno, te attendi amplificatori grossi però, di chi si dà un kilowatt, quando lei arrivi dalla bolletta a 2.000 euro, uia, ti si sono attrezzati di bene. Lo metto, parola a merito. Si si sa, più usi, più fa sorvete e più consumi. E va bene. Vabbè. Ma valvole bisogna proprio evitarle, posso capire quelli a transistor, quelli non consumano perché sono a transistor, hanno l'alimentazione switch, tanti fusosi, ma quelli a valvole si ammaccano, è assorbimento puro. Beh, un'altra tipologia, vabbè. Io dico sempre, hai avuto la bicicletta a pedala? Pure io ne ho uno, ma l'accendo ogni morte mi fa, fammi. Ieri sera l'ho provato così perché sennò mi si scarica la valvola. E non è tanto grande, immaginiamoci se abbia avuto un 600 watt, 700 watt. Oh yeah. Allora zicca, chi mi avrebbe picchiato, Sara? E chi paga la bolletta lì a tu? È un po' però un po' comaromo. Dai, soddisfazione, dai, non ti preoccupare. Tanto io, o le spendi in luce o le spendi in altre cose, quindi spese vogliono sempre. No, un cazzo in luce, cosa è in luce? È meglio che non le spendi in luce, non ti preoccupare. E va bene, dai. E la propaganda come sei messa tu? Una cosa ne so, non intendo nessuno. Ieri sera ho sentito qualcuno, ma poi non si intende nessuno, no? A 5.55 già c'era qualcuno, sta facendo ascolto di là. È un dia ghiccio. Come un dia ghiccio? Cazzo, come vai tu pure, girando, insomma, il capo come il mio. Non me le ricordo molto bene le frequenze, no? Ma cos'è il 45? No, e qual è il 45, Antu? Cazzo, non me ne ammento le frequenze, se li ho impostate io. Il 465 è il 45. Ci sì. Ho capito, il 465. Poi il 555 non so che frequenza è, capito. Poi c'è la propaganda di là. Insomma, sentivo qualcuno. Stranieri, ma non si sentiva. Non mi ricordo questo che è 27075. Con quello là è un casino, tutte le tabelline, tutte le tabelle qua a casa. Vabbè, un po' gli ho fatto impostare, da chi me l'ha dato gli ho fatto impostare, ma gli altri me li devo guardare, c'ho con tutte le frequenze, il foglio. Sì, mamma, io c'ho da 1 a 30, poi lo 0, ho messo il 45, lo arrivo. L'altro giorno ci sono uscito in onde media. E vai. No, così per curiosità. Veniva in Bogu, stazione cinese, stazione di Gnaro, di ogni parte del mondo. Ah, poi si è attaccato la Rai, si sente. La Rai ancora sta trasmettendo in onde media. Ehi, ogni tanto si... sono finito in un audiofilm l'altra notte. Lo stavo ascoltando. Audiofilm? Audiofilm, sì. Davvero? Hanno messo un film nella onde media. E non vedenti. Ah. Arrivano anche forte. Cavolo. Un bel forte. Già lo sa che quegli apparecchi ci scendono lì. Io voglio fare 45. Voglio andare in battaglia. L'anno scorso con quel coso, lo gigante, se cade di babbedà, come aprivo io, mi si viene subito, cioè passava a tutti. Cava, io stavo cercando di sentire la Pompuglia, ma Pompuglia sta facendo perché il porco non mi sente. Sto facendo l'amore. L'amore. Sicuramente. Mamma mia. Cosa? Io sono due cosa. Vabbè. Va bene. E con chi sei oggi? A tu. Non c'è mutanda, no? C'è la mutanda, sì. No, oggi non ce n'è di mutanda qua, no? già non sono loro i mali, non ti preoccupare. Ce ne sono di peggiori di mali, non si accorge. Ah, gente che rompe più le palle di lui, non si preoccupare, di loro. Ma loro proprio qua. Cavagare. Sono andato a sentimento questa volta e ci ha avuto culo, pensa che deve essere lui, cazzo lo fa, questo sarà migliore di questo, sarà la mia impressione. Va bene, ma che vale, si spegne tutto di nuovo. Andrei comparato. No, ce l'avevo già tu. Ce l'avevo già, sempre qua parcheggiato. La verità sì che volevo sempre farlo, perché? Adesso ti spiego il perché. Qua c'era un alimentatore, no? Che come l'accendevi c'era la ventolina che iniziava a fare un ronzio, mille rumori, mille cose. E poi rismetteva. Ecco, vabbè, ma che vale, lo cambio. E invece va sempre lì. Allora dopo lo faccio ma è gara il vallo. Poi c'è arrivato il momento che mi sta dando questo problema e gliel'ho fatto, ma in 5 minuti l'ho cambiato, capito? C'avevo già un 12 da 50 ampere, ce l'avevo già. Ah, quello lì cosa fa? Lo vuoi buttare? Cosa ti fa di rispetto? Guarda, la verità si ricca, la devo controllare, per adesso ce l'ho qua. Li devo attaccare, come si dice, da 2,20 e poi provarlo in 12. Capito, vorrei cosa fa. Perché se va, come si dice, con la 12 tranquillo e sereno, singolarmente, me lo tengo qua, capito? Ma non ho capito di cosa è switching o quelli normali, ma io non sono riuscito a capire quello. Sono di quelle cinesate, tanto da dove arrivano, che sono quelli rettangolari dentro lo chassis d'alluminio. Sì, la tensione gliel'hai misurata, mica devi andare a 5,8, devi girare il trimmer, se no non rende quella cosa. Io pensi quella cosa è tutti a 13. E fa la 24, capito? E l'ho misurato poi quella in uscita e va bene. E guarda, non fa neanche scaldando come io che sembrava una fuffetta, sembrava. Ma era tantissimo, però stava iniziando a scaldarsi. Vabbè che questo l'ha acceso da poco, però. Vabbè, guarda che serve in protezione come solito. Lo sai perché va in protezione? Te lo dico io perché va in protezione. Perché, in poche parole, la ventola non stava raffreddando al dovere, quello li vuole aperto, come ho fatto questo qua. Buffa dove? Staccata la ventola, buffa dove? Tutta bene, bene, bene, allora fa bene poi. Se non ti serve, portalo qua. Ehi, sono un po' mattosa, dice. Perché non so neanche se ho fatto quello giusto. Però, sino adesso già sembra che stia andando. Anche l'altro giorno ho detto così, poi ne avevo risolto un tubo. Cavalare, cavalare. Quello vuole, te lo dico io, quello li vuole aperto, te lo dico io. Perché hanno il vizio di aspirare la mondezza, entra nel circuito e dà problemi, e poi non fa raffreddare bene, capito? E io invece chi si è svegliato, ci buffa dov'è e non mi dà mai problemi. Ma poi tanto c'è un problema alla nascita, che è poco fa te l'ho detto, facciamo un rumore solo dal vento, capito? Sicuramente non lo so, il cavolo si prendeva e adesso è arrivato il momento di andare in pensione sicuramente. Allora tu, quello quella lì, quella ventolina la smonti, ce l'hai un po' di grasso spray, quello a vasellina, glielo brutti dentro, lo apri, apri la cosa, cerchi di, con la cannuccia, con la cannuccetta, cerchi di sfruttarglielo dentro, la lubrifichi e poi la provi. Sicuramente ci chioda la ventola, è per quello che ti fa in protezione. Sicuramente qualche anno ce l'ha. Vai, da quel fanno via tu. Dai, c'è che lo sta facendo. Questa sera l'ha sempre detto, perché quello qua l'ha sempre fatto. Boh. Ho provato lì la parte di sopra, avevo già dice. Boh. E vabbè, e poi per risolvere i problemi, poi tutto il resto è noia. E se non è buona una di computer, riguarda il voltaggio, se ce l'hai ne metti una piccolina di computer che vada bene lì nell'alloggio, se no ti fate casino. Se è proprio quella lì, sicuramente si blocca, ma tu l'hai guardata dentro che si blocca, perché quando scalda vuol dire che si blocca la ventola, non raffredda nulla. No, è bello che gira tu, è rumorosa. Però c'è qualche altra sincope dentro, capito? C'è qualche componente in perdita o qualcosa che sta iniziando a partire, quindi come scala se ne va in protezione, boh, è da controllare. Poi dopo l'attacco e vediamo se cosa dice per la 12. Cara gara, comunque adesso va bene la modulazione a tu, non è che siamo fuori frequenza, no? Manguri! Ah, comunque la planeta c'è, se te l'ha fatto da prima, rumori e cose, vuol dire che non gira al dovere, non raffredda, dimmi. Bisogna controllarlo, quanto gira quella cosa. Oh, sicuramente così, fidati di quello che ti dico. Cara, cara, ti ho detto, ma la modulazione c'è per tutta la mia, non è che sembra fuori frequenza, no? Ma adesso ha fatto due... Cosa tu? Che ha fatto due... Ah, che microfono è, sta scricchiolando, boh. No, non è microfono. Aspetta. Secondo me non è roba di cose. Uia. Vabbè Dani, io ti abbandono un po', ci sentiamo dopo, ok? Ehi, non muori, dai. Dimmi adesso com'è, sei più uguale. Ora va bene. Gli ho cambiato microfono. Va bene, non muori, dai, sì, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, io sono qua dietro. Mi sta dando di questa cosa. Ehi, ok, ciao, ciao, ci sentiamo. Ehi, Anto, a dopo, ciao, ciao. Corona, arrivare tanto. Ma fa a scendere ancora di fatte, non sai che sono io. Tu non ti preoccupare, già me ne accorgo io. Che gli ho già fatti io, non se ne ha avvisato nessuno, non sono preoccupato. Che se voglio frego a tutti. Check. Saluto io a tutti i colleghi della banda, io mi mantengo qui qua per... Per percettibile, però c'è un'anomalia. Cara, come aggancio quando parla, com'è? Quando tu parli. Muovanti. Sono davvero. Aspetta, che tengo la sigaretta, qua sto prendo fuoco. E chi ha fume? Certo che sì. Ah, bravo, io ho un po' di avevamo fatto di dinà. Cosa tu sto parlando qua, dimmi. Aspetta, a buttarci i soldi. Aspetta, ho visto il suo messaggio, aspetta. Chiaro, chiaro, bene, veda. Ma anche così te l'ho fatto. Guarda adesso, bambolino, salito, questa piccola stazione che ti chiama. Buon, impercettibile. Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. Non ce l'ha il coso attaccato? Certo, qua c'è il coso attaccato, ma qui qua sta viaggiando in alto. Ecco, guarda un po', se voglio posso ancora mettere altro pelino qua. Facendo prove di microfono. No, prove che il Galaxy è partito, non sta più andando. Ma hai detto canale 12, ho capito male io, siamo sul 10, No, però può fare o sul 12? Vabbè, dai, magari mi senti su Splatter. E cosa c'ha il Galaxy già? Oh, esce sempre con un fischio con quella radio strana. Ce l'ha ripreso ieri e poi di nuovo l'ha fatto. Adesso sono con il Cobra, come sta andando? Mediamente bene, vabbè, io c'ho quello l'Intec con l'altoparlante frontale che non è un granché in ricezione, l'altoparlantino è troppo piccolo. Ma quindi è diventata una cosa tangibile, cioè te ne sei accorto che ha dei momenti in cui esce più limpido, più forte, dei momenti che è più basso e con quella leggera saturazione. Però già, un consiglio, non lo toccare, se proprio lo devi far vedere, fallo vedere a chi è pratico, capito? Magari è una fesseria. No, ma infatti non lo tocco, non c'è problema, non ne metto mano io. Fai un passaggio lungo, che alza un po' il volume, sono sempre col volume al minimo io. Io sto facendo con un microfono normale. Ma con Galaxy io ti ascolto bene per ora. Ripeto, altoparlantino che è largo due dita. È un po' vile come ricezione, non è il 3009, capito? Però dopo tutto ti sento bene. Spero altrettanto che tu mi senta bene. Dai, io sento bene, bene, bene. Benissimo Marco, ti ascolto di luce. Aspetta però che mi devo regolare una cosa. Prova 1, 2, 3, prova. Così dovrebbe andare bene. Dai. Aspetta. Ecco qua. Ho regolato. Regola bene. K. Mi sembra che ci sia anche Francesco, se non sbaglio. Uranio, sei tu? Già sono io, già. Sono un'ora che sto dicendo a doppio room. E sta uscendo bene, qua arrivi benissimo caro, bene, un stupendissimo eco di radio, bellissimo, l'eco ti accompagna benissimo con la tua modulazione, anche tu Marco stai arrivando benissimo qua, non so come stia uscendo io, però voi state uscendo alla perfezione, ok. Buonasera a tutti e due, dalla collinetta qua Uranio, riprendi tu Marco come mi hai fatto entrare, buonasera ancora a tutti e due, a te K. Ok, sì, io sto utilizzando adesso un M150 Plus Intec omologato, non c'ha manco smitter, pensa, c'ha la tua parlante frontale ma non la smitter. E come microfono uno ZGM95, penso con batteria mezza scarica perché qua non è strano come cosa. Comunque se mi sente bene, tanto di guadagnato. E qualche aiutino di watt anche. Gianni, riprendi. Ciao Orario, ho presentito cordialità anche a te, dai. Stavo provando questo qua perché l'altro mi ha dato un po' di problemi, quindi devo farlo vedere a qualche dottore, se me lo guarda. E comunque tu Gianni stai arrivando qua a 9.15, il segnale 9.15, il segnale ti ho detto, modulazione stupenda, è ok, accompagnata da un eco stupendo lo stesso e niente di più, ok, tu Marco lo stesso qua una radio di 5 perfettissimo, ok, anche amplificata e niente, segnale 9.10 il tuo, a te Marco. Sì, ho dovuto abbassare un po' lo squelce perché è un po' critico in questo apparecchio, basta che lo metti appena appena più della soglia di silenziamento e comincia a tagliare i segnali, è una rottura di scatole. Vabbè già, comunque col microfono normale, ripeto, ma l'apparecchio è quello e un altro. Questo qua è il Cobra. Ma il famoso 29 LX, quello bello. Credevo che l'avessi venduto dopo tanto, invece ce l'hai ancora, meglio così, dai. Comunque era un discreto apparecchio quello, ripeto, se avessi potuto l'avrei preso anch'io, a suo tempo. Ma non è quello digitale, questo qui è Cobra 2000 DX. 2010, aspetta che guardo, non me lo ricordo mica. Vediamo se c'è qualcuno sul canale che vuole entrare, così io mi finisco di mangiare qualcosa. Avanti sul 10. Oggi penuria, oggi proprio mortuorio già. Qua è acceso, credo, tutta la sera. Che oggi non ho combinato, non sono uscito, la giornata era un po' così, non mi ha ispirato. Non ho sentito un granché, poco e niente, più niente che poco. riprendi Uranio, che finisco qua l'intermezzo. Dai, ci hai capito. Ok, perfetto. Tu, se non ho capito male, sta facendo la carica, diciamo, carica di cibo. Ok, perfetto. Comunque, ripetendo, Gianni, stai facendo bene qua, stai facendo bene, non so come ti stia arrivando io, che fai la cortesia, mi ricambi il controllo come ti sto arrivando io lì alla tua stazione, capo. E a te, Gianni. Dai, sei leggermente compresso, ma già va bene, già va bene come segnale, come tutto. Un po' compresso, sì, sicuramente stai usando un vattimo. No, negativo, sto facendo liscio, controlla. Aspetta che mi sono allontanato dal microfono, forse è che il microfono lo sai usare, un casino. Ok, dovrebbe andare bene adesso, dimmi come adesso l'orario, dovrebbe essere a posto adesso, dimmi a te cambio. Adesso va bene, adesso l'orario è più limpida, anche se non è tanto forte, ma è limpida, capito? Adesso è più limpida come radio, prima era un po' compressa, rimaneva, probabilmente come lo attaccavi molto alla bocca. Perché sto usando l'MC60, capito? Sto usando l'MC60, adesso sono a una distanza di circa 50 centimetri. Adesso a una distanza di circa 40 centimetri, dovrebbe andare bene lo stesso. Ok, bene bene, a te cambio. Sì, ma per essere l'MC60 non sta amplificando nulla, Con che apparecchio lo stai usando? Più o meno con il suo apparecchio. Qua non sto usando Baracchino, sto usando sempre Kenwood. Sto usando il 5 Ma se al processore mettilo, magari non rende per quello. Io qua non so cosa cavolo toccare, non tocco niente, cioè che ci fosse qualcosa qua, non capisco, un accidente, io non lo so, qua bisogna chiedere a qualcuno, perché io qua non capisco niente. Così, non lo so, vabbè, comunque l'importante è che sta uscendo bene, dopo che sia, diciamo, mi allontano e forse siamo messi, dai, ok, perfetto, vediamo un po' se è stato Marco. Chiedi a Claudio che te lo regola bene, perché amplificazione non ne hai, ti ripeto, sembra una radio normale. Ma... E boh, cosa vuoi dire? Non lo so. Bisogna toccare qualcosa qua, non lo so, boh, non lo so. Comunque il microfono è a posto, è tutto regolato, l'hanno regolato, io non ho toccato niente qua, quindi... Non so cosa dirti. Marco! Un attimino. Mangia, mangia, tranquillo, mastica. Tu come lo senti? C'è un MC60, secondo te la verificazione dell'MC60 è questa? Aspetta, già, però ti stai abbassando molto di voce, ti sei allontanato, è scomparso anche l'eco, quasi. O ti sei allontanato, o stai parlando talmente piano che arriva Radio 2. Ah, guarda. No, adesso sei tu, forse ti eri allontanato e tutto. Come dicevo Uranio, qua discretamente bene. Ripeto, il tuo parlantino non è perfetto come ricezione qua, però dopo tutto l'ascolto bene di radio. Fai un passaggio breve, Francesco, dai, vediamo. Marco, c'è un MC60, amplificatore non si intende. No, ma come comprensibilità è tutto. A parte l'amplificazione, io lo copio bene, conta che sotto c'è un bel di ciabotto di propagazione, QRM, cos'è? Sì, ma anche io, quando si è staccato dal microfono lo sentivo bene, però non c'è amplificazione, è un microfono che sicuramente ha bisogno del processore. Voce Gianni, ma non mi senti? No, ma è come se tu mi, prima ti sento così quando sei forte e poi ti sento tipo così, no? Basso basso di radio. Io mi sento qua, c'ho il parlascolta e mi sento bene. Forse ti allontani un po', non lo so, vabbè, io sono attaccato all'apparecchio e ce l'ho proprio quasi in grembo. E io ripeto, Francesco arriva discretamente qua. Va bene, poi ho capito qual era l'apparecchio già acceso, me ne ero già dimenticato che avevi quella cosa lì, me ne ero dimenticato. vabbè. Comunque questo qua, sto usando quello. Vedi, così regolato esce anche bello tranquillo, è una modulazione da chiacchierata anche notturna, no? Perché quello volendo può uscire mostruosamente forte, ma per le chiacchierate così va bene, da salotto va bene così. Però a me mi sa che questa batteria è mezzo scarica, perché non spinge sto microfono, mi sembra strano a me. Prova, scusa un attimo. Magari mi sa, era quello lì che mi chiudeva tutto. Vediamo Francesco se mi copia ancora nel QRM. Adesso sono 3 watt. No, avrebbe bene, avrebbe sempre bene Marco. Un segnale 9 si è creato di qualche tacca, ma è un segnale 9 qua, La radio, forse si è rotato al microfono, si è un po' abbassato i reali, ma poca roba. Eia. Vediamo un po' Gianni, si è fatto. Gianni, secondo te questa è una modulazione amplificata? Perché se non lo è vuol dire che la batteria è andata. Hola. Hola. Dimmi tutto. Stavo controllando il watt, perché Marco mi ha detto va bene a fare salotto, poi c'ero un po' in watt, era da regolare. No, ma dico la modulazione già, a parte il watt, la modulazione da salotto così. Gianni, senti se senti amplificazione, perché se no la batteria vuol dire che scarica qua. ZG è -95. La radio 5 perfetta con l'aggiunta, diciamo, del verbero dell'eco, e arrivi benissimo, guarda, non toccare niente, lascialo così che è una bellezza con l'apparecchio, lascialo stare così, non toccare niente. No, non sto toccando niente. Marco, non ce n'è amplificazione, dico la verità. Allora la batteria è andata. No, perché io usavo queste batterie da 9 volt ricaricabili, che poi sono 8,4 volt, no? Però dopo tanti anni non mi tengono più la carica, e abbassi le lampu e metto la batteria Duracell o Energizer, per quanto io lo usi poco, mi sai perché sono costretto a usare questo microfono? Perché il mic originale di questo apparecchio era condensatore. Se li metto il microfono con la normale capsula 500 ohm, mi pare che non esca di radio. Necessita di un mic a condensatore, e questo preamplificato è l'unico che ho a condensatore, però se c'è un basso già di radio vuol dire che la batteria è andata. Va bene, domani acquisto batteria nuova. No, basso no Marco, la radio è presente, però non amplificazione, capito? Non amplificazione, quella radio è chiara, presente, è abbastanza comprensibile, ma non è amplificata, quello è. Appunto, guarda, così sono lontano tutto il braccio lontanato, volume di parlata normale.